nel 2015 e oggi è appunto un'associazione attiva in tutto il paese. Arrivando alla 2 giorni di manifestazioni, ce le ha presenti? Noi avremo il momento principale il 29 di luglio mattina in Largo Gaetano Agnesi, proprio in vista Colosseo. Perché? Perché il G20 Cultura si inaugurerà al Colosseo, chiudendo al pubblico il monumento per una cerimonia alla presenza del ministro Franceschini, ma anche del premier Draghi, proprio il 29 luglio. Poi noi proseguiremo con assemblee in un luogo ancora in via di definizione, che insomma annunceremo nei prossimi giorni. Ci sarà una conferenza stampa il 30 mattina per tirare un po' la summa di quello che è successo nella giornata del 29. Parteciperanno tantissime associazioni di settore, noi lo organizziamo insieme a USB, Lavoro Privato e Federazione del Sociale, ma aderiscono Italia Nostra, l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, l'Associazione Italiana Biblioteche, gli auto-organizzati Spettacolo Roma e tante altre realtà del settore culturale. Per chi volesse, noi il 28 sera ci incontreremo a Casetta Rossa per una sorta di pre-manifestazione e preparativi. Ribadisco, il momento principale la mattina del 29 luglio a Largo Gaetano Agnesi, nei pressi del Colosseo, alle 10 del mattino per un presidio a microfono aperto. Quali sono le principali rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo della cultura? Del mondo del patrimonio culturale preferisco sottolinearlo, perché la cultura è un enorme settore che prende anche realtà diverse, per esempio il mondo dello spettacolo, che ha esigenze sicuramente parallele ma parzialmente diverse da quelle che andrò a raccontare. Noi come lavoratori e lavoratrici del patrimonio culturale abbiamo 2 rivendicazioni principali. La prima è quella di rivedere completamente il sistema di esternalizzazioni al massimo ribasso che è stato introdotto all'inizio degli anni 90, che ha preso piede e è cresciuto fino a diventare un mostro, fino a diventare un sistema che toglie diritti ai lavoratori, toglie qualità ai servizi che dovrebbe ricevere la cittadinanza, i servizi culturali, e crea vantaggi solo per pochissime realtà, pochissime aziende che gestiscono i profitti turistici legati al patrimonio culturale. La seconda è quella di avere un settore culturale che funziona, quindi ben finanziato, partendo dal presupposto che investire in cultura, investire in servizi culturali sia un vantaggio per tutta la cittadinanza, perché si diminuisce l'esclusione sociale, si crea inclusione, si crea democrazia, si crea partecipazione culturale, che è un problema gigantesco per questo paese, e quindi avere investimenti adeguati, studiati nel dettaglio, perché non serve a niente avere un patrimonio culturale che insomma è lì al servizio di flussi turistici internazionali che portano poco poi alle città, parliamo di Roma, alle città che li ricevono, ma serve un patrimonio culturale che sia proprio pensato come servizio alla cittadinanza e quindi accessibile a tutti e per tutti. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? www.miriconosci.it, la nostra pagina Facebook, e abbiamo anche pubblicato, anzi è uscito proprio in libreria l'altro ieri, un libro con De River Prodi che si intitola Oltre la grande bellezza e racconta l'elaborazione e la produzione di Miriconosci. L'evento si chiama Oltre il G20, senza cultura nessun futuro, e lo trovate online anche su Facebook. Al Colosseo a Roma il 29 e 30 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Leonardo Bison, attivista di Mi Riconosci. Un in bocca grazie al lupo e a presto. Grazie, grazie a voi, a presto. Con Nicola Bianco, uno dei curatori della 27esima edizione del Festival I Solisti del Teatro, a Roma, Giardini della Filarmonica Romana, dal 6 luglio al 4 settembre 2021. Nicola, ben trovato. Ben trovato, ti ringrazio. Io sono responsabile della direzione generale, la direzione artistica è di Carmen Pignataro. Raccontiamo cos'è l'esperienza dei Solisti del Teatro. Come ben sai, perché noi in qualche modo ci sentiamo più o meno ogni anno, siamo alla 27esima edizione, sono in realtà 28 anni che questo festival va in scena. L'anno scorso, causa Covid, la 27esima edizione non c'è stata e quindi

un bando che ha realizzato la Fondazione Claudio Nobis per dare un contributo alla produzione di uno spettacolo con degli attori under 35. Quindi ancora una volta un grandissimo appoggio e sostegno alle compagnie dei giovani o comunque ai giovani interpreti. E quest'anno il vincitore è l'Associazione Culturale Alta Academy con la lezione di Ionesco con Paolo Roperei e Alberto Melone. Il festival si chiude il 4 settembre con uno spettacolo delizioso con Tiziana Foschi. 27esima edizione del Festival I Solisti del Teatro a Roma, ai Giardini della Filarmonica Romana dal 6 luglio al 4 settembre 2021. Saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Nicola Bianco. Un in bocca grazie al lupo Federico, e ci vediamo. Ricordo a tutti gli ascoltatori, il sito è www.isolistidelteatro.it. Con Francesco Di Bella del Circolo Arci Concerto Marchesi per presentare la rassegna Estate al Frantoio dal 1 luglio al 1 agosto 2021. Ben trovato. Grazie Federico, ben trovato anche a te. Una rassegna soprattutto musicale, raccontaci un po'. Sì, sarà tutti giovedì, venerdì, sabato e domenica fino ad arrivare al 1 agosto per il momento, poi non sono escluse sorprese di prolungamenti. Partiamo con una rassegna di concerti delle bande di strada romane. Abbiamo messo insieme 5 bande e iniziamo con ritmi balcanici con appunto la Balkan Lab Orchestra. Poi venerdì ci sarà la presentazione di un libro di fotografie che è Viaggio nelle borgate romane, un libro di fotografie appunto sulle vecchie borgate, sulle 12 borgate originarie romane, curato da Silvio Mencarelli. Inizierà alle 18 e poi musica a seguire, ci sarà anche la proiezione della partita e in tutte queste giornate, chiaramente al di là degli eventi speciali, avremo il fresco del parco, perché il nostro circolo ha un parco a disposizione, ci sarà la trattoria sociale, poi proseguiamo sabato una serata romana con canzoni romane, appunto balli e karaoke a cura di Lello, che è un cantante di zona di Tiburtino Terzo. E invece domenica una cosa più rilassata, perché tornando dal mare si spera, abbiamo lanciato un torneo di biliardino. Per adesso sono sicuramente fissate le 5 date delle bande di strada, comunque sulla pagina troverete tutto, Circolo Arci Concerto Marchesi, sulla pagina Facebook, e altri eventi che stiamo preparando, alcuni sono già inseriti nel programma. È un ritorno alle attività dopo le chiusure pandemia? Sì, purtroppo siamo dovuti star chiusi con qualche breve interruzione, in sostanza più di un anno, e appunto abbiamo riaperto un po' l'estate scorsa ma con eventi così sporadici, e poi a ottobre, quando avevamo preparato l'Ottobrata Romana, un programma molto ricco partendo dagli sport popolari, avevamo già contattato le palestre popolari che stanno a Roma, e purtroppo c'è stato questo blocco ulteriore. E quindi li siamo ripartiti adesso e abbiamo voluto in qualche modo anche riprenderci un po' gli spazi nell'assoluto rispetto della sicurezza, quindi insomma ci sarà lo spazio perché il parco è grande, con le mascherine se non si sta al tavolo, e però insomma volevamo riprenderci questi spazi per stare insieme, poter discutere, poter divertirci, rilassarci, fare qualche bel evento, qualche incontro interessante e stimolante, però è così, ripartiamo da questa iniziativa. Le scelte rispetto alle bande come sono state? Abbiamo contattato la Titubanda, che ci ha messo a disposizione, diciamo, il loro know-how che avevano su queste cose, e siccome appunto loro sono stati fermi, tutte le bande sono stati fermi anche loro per tutto questo periodo, adesso ci hanno proposto loro di far partire questa rassegna per poter dare la possibilità un po' a tutte le bande di poter suonare in questa occasione. La Balkan Lab Orchestra il 1 luglio, l'8 luglio Rustica en Strada Banda, il 15 la Titubanda, il 22 Fanfa Roma e il 29 la Banda Cieca Fumo. Però è che è partita da questa collaborazione con la Titubanda per creare questo festival delle bande musicali e ridargli la possibilità di poter suonare all'aperto e appunto

bando che si chiama Portraits on Stage, abbiamo coinvolto anche gli altri promotori e attraverso quello abbiamo fatto una selezione, abbiamo trovato dei vincitori e li abbiamo programmati. E poi appunto, ripeto, la nostra osservazione di quello che c'è, diciamo, sul territorio nazionale avviene soprattutto grazie alla rete e ci sono, ripeto, moltissimi spettacoli che possono entrare a far parte di quest'idea, no? Di questo Portraits on Stage. Abbiamo anche una sezione che si chiama Il Sentiero dei Piccoli, dove diamo spazio a degli spettacoli di teatro per le famiglie, ma diciamo con un'attenzione ai bambini, e dove l'arte viene spiegata ai bambini. E sono molto orgogliosa di questa sezione perché non è un fatto scontato. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? Noi siamo su Facebook, sia come Portraits on Stage, sia come Settimo Cielo. Il nostro sito è www.settimocielo.net e abbiamo ovviamente anche un numero di telefono, ma forse la cosa più pratica e anche più facile da ricordare è il sito. Naturalmente abbiamo anche la possibilità di fare comprare al pubblico biglietti via internet, per cui Ticketgate, su Ticketgate. E poi abbiamo, dicevo, una mail dedicata che si chiama prenotazioni@settimocielo.net. Ricordo che è necessario prenotare perché siamo ancora in una situazione, insomma, complicata, quindi i posti sono a sedere, posti numerati, assegnati e distanziati, per la sicurezza di tutti naturalmente. Il festival multidisciplinare Portraits on Stage, Arte in Cammino, nella Valle dell'Aniene, dal 19 giugno al 30 luglio 2021. Saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Gloria Sapio. Un in bocca grazie al lupo mille, e a presto. Grazie. A prestissimo, veniteci a trovare, sono posti fantastici, vale la pena. Con Claudio Suzzi, direttore artistico della compagnia Interazioni Elementari, presenta il progetto Streaming Theater, un ponte tra carcere e città. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Raccontiamo un po' di questo progetto. È una rassegna di eventi che si svilupperà fino alla fine dell'anno, diciamo, per concludersi a dicembre 2021. È un concept molto innovativo perché noi abbiamo cominciato a lavorare con l'utilizzo della diretta streaming ben dal 2019, quindi prima di tutte le problematiche legate alla pandemia, e l'abbiamo fatto proprio perché la diretta streaming ci sembrava una grande possibilità da utilizzare nel contesto carcerario, dove io come regista e la compagnia Interazioni Elementari a Firenze lavora oramai da 4 anni. Questo progetto, questa unione tra il carcere e la città attraverso la rete internet, attraverso lo streaming, va a colpire, diciamo, un po' due elementi fondamentali per la vita dei detenuti, cioè il collegamento con la comunità esterna e il lavoro quotidiano. Allora, il collegamento con la comunità esterna, quando si fa teatro in carcere, ovviamente è limitato a quei momenti di replica dello spettacolo che è frutto del laboratorio annuale che si fa in carcere proprio nelle attività rieducative dei detenuti, però insomma proprio per la routine del carcere che è molto rigida, ha una scansione molto precisa, si possono fare poche repliche in carcere, quindi sono 2, 3, 4 repliche quando le cose vanno bene, facendo entrare il pubblico in carcere. Questo è una modalità importante perché c'è un incontro, però il fatto di poter fare poche repliche crea un evento straordinario e poi però, finito questo evento straordinario, i detenuti rimangono con un vuoto molto pesante poi da affrontare. Invece con lo streaming noi abbiamo la possibilità di aumentare gli incontri con la comunità esterna e per questo abbiamo pensato appunto a uno spettacolo di cui abbiamo fatto il primo studio nel 2019, lo spettacolo si chiama One Man Jail, Le prigioni della mente. E quindi come funziona questo spettacolo? Un attore recita in un teatro e in un telo da proiezione, in un grande telo da cinema, i detenuti in tempo reale possono recitare interagendo con l'attore in scena. In questo modo lo spettacolo, essendo fatto in teatro, può girare, può essere distribuito, può circuitare e quindi si vanno ad aumentare le possibilità appunto di incontro con la comunità esterna che viene in teatro a vedere lo spettacolo e non entra in carcere. Questa possibilità di fare più repliche e quindi di partecipare a un evento che viene fatto nei teatri dà la possibilità anche ai detenuti di poter trasformare questa attività educativa e comunque annuale in un vero e proprio lavoro. Questo è un po' il concept del progetto, poi ci sono tanti altri eventi intermedi, è un'operazione insomma abbastanza ambiziosa ma pian piano ce la stiamo facendo. Qual è il lasso temporale e quanti sono gli eventi previsti? Il progetto è cominciato a dicembre 2020 con anche un altro evento molto sperimentale che abbiamo fatto, cioè abbiamo creato un laboratorio che si sviluppava tra il dentro e il fuori, quindi c'erano degli attori fuori, degli attori detenuti dentro e loro tramite lo streaming interagivano e abbiamo unito il carcere minorile di Firenze, il Meucci appunto di Firenze, con una delle carceri storiche di Firenze, cioè il carcere delle Murate. Poi abbiamo fatto entrare il pubblico nel nostro laboratorio, sempre grazie allo streaming, e abbiamo fatto un evento anche lì abbastanza articolato in memoria di Sant'Enotar Nicola e quindi abbiamo presentato una piccola tappa del lavoro che stiamo facendo sulle poesie di Sant'Enotar Nicola. Gli eventi continueranno fino alla fine dell'anno con una piccola rassegna dedicata alle arti in generale che si chiama Stream Talk, sono dei talk, il primo appuntamento era dedicato alla poesia, dopodiché il 29 luglio avremo un appuntamento dedicato alla musica rap con la presenza di Sbarre Mikcek che cura il laboratorio di rap all'interno del carcere minorile di Firenze e dove verrà presentata la rete di laboratori rap che si svolgono nelle carceri minorili Italia. Poi il 15 settembre invece avremo sempre un appuntamento degli Stream Talk dedicato all'arte urbana, all'arte visiva con la presenza di Clet Abram che è un artista urbano molto conosciuto di Firenze. Per concludere appunto gli Stream Talk il 30 settembre con un'anteprima del lavoro appunto sullo spettacolo che poi debutterà a dicembre, quindi One Man Jail, le prigioni della mente. La rassegna prevede anche un laboratorio di formazione appunto tra il dentro e il fuori, sempre con la stessa modalità di unione attraverso lo streaming sulla figura dell'operatore di teatro sociale di comunità, per concludersi poi con un momento insomma di verifica in collaborazione anche con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, con l'associazione L'Altro Diritto che appunto è partner del progetto, con una giornata di studi dedicata al teatro in carcere, soprattutto dalle nuove tecnologie applicate al teatro sociale, e una pubblicazione che verrà presentata al pubblico. La chiusura ovviamente del progetto, il grande evento del progetto è il debutto dello spettacolo di One Man Jail, le prigioni della mente, che verrà presentato in prima nazionale a Firenze in un teatro in via di definizione, insomma. Ci dai tutti i riferimenti internet per seguire tutto? Ovviamente le nostre pagine social, quindi cercando ad esempio su Facebook Interazioni Elementari Performing Art, il nostro canale YouTube dove ci sono anche registrate le dirette streaming che abbiamo fatto in passato, è importante il nostro sito www.interazionielementari.com. La rassegna Streaming Theater, un ponte tra carcere e città. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Suzzi, direttore artistico della compagnia Interazioni Elementari. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie, a presto, grazie a voi per il vostro spazio. Con Alessandra Stanghini, una delle curatrici della rassegna Spettatori Erranti Summer, 7 spettacoli nella provincia di Arezzo dal 13 luglio al 19 agosto 2021. Ben trovata! Buongiorno anche a voi, buongiorno! Raccontiamo per chi non lo conoscesse Spettatori Erranti.

teatrale appunto del settore toscano. Inizieremo il 3 di luglio con il debutto del primo canto dell'Inferno fatto da Roberto Latini. È un'operazione appunto di teatro e musica, il musicista sarà appunto il gruppo Music Pool, ambientato appunto in quello che è l'Inferno vero e proprio, il parco naturale delle Biancane, dove ci sono appunto ancora gli ultimi fenomeni geotermici, c'è una sassaiola dove la terra ancora fuma, quindi quale miglior paesaggio dove fare l'Inferno. Per poi passare il 23 e il 24 di luglio all'interno dell'arena geotermica, dove si svilupperà il primo canto del Purgatorio. Qui saremo noi a scendere in scena con le Officine Papage. Sarà un lavoro immersivo con una videomappatura interna della struttura del refrigerante che accoglierà appunto una nostra personale interpretazione appunto di questo canto. Per poi finire il 22 di agosto, ultimo spettacolo del festival, con l'ultimo canto appunto del Paradiso, fatto da Accademia Mutamenti, in un altro luogo straordinario del nostro territorio, che è una rocca a 500 metri di altezza, dove 10 anni fa è nata la prima edizione del Festival delle Colonie Geotermiche, che allora si chiamava Fra Terra e Cielo, un posto che proprio si eleva verso il cielo. Quindi ecco, all'interno della programmazione c'è anche questo percorso dantesco che è proprio un attraversamento didattico anche dei nostri territori che si fanno scenografia. Ci lasci tutti i riferimenti internet? Troverete tutto sul nostro sito officinepapage.it e poi appunto abbiamo la nostra pagina di riferimento che è quella di Officine Papage, dove troverete tutte le informazioni, post. Naturalmente per normativa Covid la prenotazione non è obbligatoria, però è fortemente consigliata perché i costi comunque sono limitati. Se c'è un numero di telefono di riferimento trovate tutte le informazioni che sono molto semplici anche su Live Ticket, dove sono appunto in vendita anche direttamente i biglietti. 10ª edizione del Festival delle Colline Geotermiche nella provincia di Pisa e Grosseto dal 2 luglio al 22 agosto 2021. Un saluto e un ringraziamento a Marco Pasquinucci di Officine Papage. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie mille, davvero di cuore. Loris Seghizzi, direttore artistico, per presentare la 23ª edizione di Collinarea, Connessioni in tempo in Fausto, a Cascina Terme il 20 luglio e a Borgo di Lari dal 22 al 31 luglio 2021. Ben trovato! Salve, ciao a tutti! Per chi non conoscesse Collinarea, descrivicela! Collinarea è un festival che compie 23 anni, scandisce proprio il tempo, non è sempre stato un tempo infausto, ma diciamo che tutti sappiamo, abbiamo conoscenza invece di qual è il colore dell'ultimo periodo. È un festival prevalentemente di teatro, ma che vuole aprirsi all'arte, quindi c'è musica, video, cinema e il performativo molto presente e soprattutto legato alle location particolari del Borgo di Lari, Prendo Castello, Trato, Dall'Ari si vede fino al Golfo di La Spezia, si vede Piazza dei Pinacoli, è un luogo abbarbicato sulle colline pisane, un luogo splendido e da sempre noi cerchiamo di far sì che il festival diventi anche il motore per far muovere un certo tipo di turismo qui in questa splendida zona della Toscana, il teatro al centro dell'attività e della politica per promuovere questo bellissimo territorio. Come si caratterizza questa edizione a partire da questo titolo, Connessioni in tempo in Fausto? Connessioni e tempo in Fausto sono i due elementi sui quali stiamo lavorando prevalentemente. Connessioni perché dall'anno scorso abbiamo dato vita a questo progetto che da 10 anni avevamo in testa e in tempo di pandemia poi ci è sembrato proprio perfetto esporlo, che consiste nel aver messo in connessione in fibra ottica 6 delle location più belle del Borgo in modo da poter presentare il primo spettacolo dislocato di cui si abbia conoscenza. Si tratta di tecnologia applicata allo spettacolo, al live nello specifico, quindi uno spettacolo che avviene contemporaneamente in più luoghi, lo stesso spettacolo ovviamente. Frammentato in più luoghi, dove ogni luogo c'è l'artista e gli artisti che lavorano, certo, i propri spettatori che però possono vedere gli artisti interagire attraverso un videomapping, una proiezione dove appunto si va a vivere quello che succede negli altri luoghi. E tempo in Fausto perché è lo spettacolo che ha debuttato alla vicaria di Madante a fine maggio, una nostra produzione, che non ha questo titolo a caso ovviamente, che prende riferimento Fausto Coppi, parlare in realtà del tempo, no? In questo tempo sospeso tra la vita e la morte, dove appunto poi come per andarsi è più forte circa la cosa. Allora, poi tutto questo terrorismo ovviamente che ci circonda, quindi ecco che i due nomi danno il riferimento per quello che dobbiamo andare a presentare. Quanti sono gli eventi di questa edizione? Abbiamo 23 spettacoli, 5 laboratori, 2 incontri a tema appunto su connessioni e una mostra fotografica, insomma un bel po' di roba direi. Facciamo un po' la panoramica su quelli che sono gli spettacoli, sulla scelta che avete fatto. Diciamo che ci è piaciuto partire con Dante, con un omaggio, visto che è l'anno, il progetto con la Regione Toscana, e abbiamo scelto un luogo splendido che è la Torre Aquisana, che proprio perché appunto lo prima festa è avere questa capacità di promuovere il luogo e dare la giusta immagine, il giusto riscontro alle bellezze del luogo, e quindi è un progetto basato sul video e sulla narrazione, sulla lettura, con musica dal vivo, e poi da lì ci spostiamo all'Ari, dove inizia tutta una serie di spettacoli e di eventi, a partire da questo progetto creato sempre sul territorio con 18 ragazzi tra i 17 e i 20 anni che abbiamo formato qui a casa, che devono essere portavoce di quello che è una delle nostre mission più importanti, ovvero valorizzare quello che è l'impatto che ha il teatro e l'arte in generale sul territorio. Il festival deve essere un'occasione non solo per far vedere gli spettacoli, ma per far vedere quanto è importante a livello socio-culturale l'attività di teatro che si svolge sul territorio, soprattutto quando non si parla di metropoli o di città, ma di un territorio appunto sulle colline come il nostro. Perché dobbiamo, secondo il nostro pensiero, anche andarlo a riprendere il pubblico e creare un coinvolgimento popolare, cioè le persone devono sentire proprio il progetto, ecco, devono essere orgogliosi, quindi un riavvicinamento completo, un abbattimento di tutte le barriere. Poi il 23 c'è Bobo Rondelli che presenta il suo nuovo album, e da lì una serie di spettacoli, sarebbe veramente lunghissimo, che ci portano fino alla conclusione, che appunto questi 2 giorni con Tempo in Fausto, lo spettacolo che poi viene presentato in modalità connessioni, quindi viene presentato in modo dislocato, che chiuderà il tutto. Non mi piace dire che c'è un tema, però abbiamo voluto trattare questo colore nero, no? Che ha attraversato quest'anno e mezzo, si è tinto di morte, e quindi la morte è un tema che trattiamo, lo trattiamo in tutte le sue sfaccettature, no? Non vogliamo essere tragici, quindi non ci piace attraversarlo soltanto in questo modo, ma anzi è una grande riflessione su quello che è la condizione che viviamo, soprattutto non tanto la paura della morte, che è qualcosa che è naturale che sia il titolo dell'essere umano ed è anche giusto, quanto la consapevolezza, no? Quindi con la consapevolezza riuscire a capire che se c'è una certezza, quella è, e quindi tutto questo terrorismo che viene creato, insomma, è un anno che abbiamo visto di tutto, dove la memoria con gli anziani anni è venuta meno, è stata cancellata gran parte di questa memoria. Infatti anche nel festival abbiamo dentro un progetto con gli anziani, una proiezione di una veglia di un progetto che abbiamo fatto nel 2007, proprio per raccogliere questa memoria, rielaborarla con la contemporaneità, quindi attraverso i ragazzi, i vecchi ragazzi, che è questa commissione indispensabile, e proiettarsi nel futuro e riuscire ad avere uno sguardo diverso, perché tanto non sarà niente come prima, troppo per molti altri. Ci lasci tutti i riferimenti internet per seguire il programma? Il sito è www.collinarea.it e poi la pagina Facebook omonima, dove ci sono gli aggiornamenti quotidiani. infocollinarea.it per mail, ci sono comunque tutti i riferimenti anche per telefono, prenotazioni, eccetera, eccetera. Tutto organizzato in modo che sia meno invadente possibile questa frustrazione che si vive a non poter avere tutto il pubblico che vorremmo. 23esima edizione di Collinarea, connessioni in tempo e Fausto, a Cascina Terme il 20 luglio e a Borgo di Lari dal 22 al 31 luglio 2021. Saluto e ringraziamento al direttore artistico Loris Seghizzi. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie tante. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.